non c'è salute. Boh, non lo so. Io ieri notte non stavo lavorando, era buon'ora, ero. Stavi lavorando di notte? Da mattina. Stavo lavorando, era buon'orva, ero. E chi è un buon'orva? Creivi. Quando esce il lavoro mi chiamano e vado. Sono tornato alle 3 di notte. Cos'è a cantare? No. Service, cioè praticamente abbiamo montato l'impianto in un carro, cioè il carnevale. Mi ha chiamato, perché io collaboro anche con Davide Merlini. Mi ha chiamato e sono andato a lavoro. Sì, l'avevi detto l'altra notte. Oltre che collaborare con Roccaso, lavoro anche con Davide Merlini. E poi domani sono tutto il giorno alle bombole. Cosa devo fare? L'importante è lavorare, è incassare. E non che se vieni sempre di là. Io ti grido che se vieni sempre di là. Solo la sadia, mi sono fatto un po' di là, perché io glieli compro a scatole, se no. Ho pigliato due scatoloni, i bannolini, più salviette, tutto quello che serve al bambino. Mi sono abbassati un poco, un'ottantina di euro mi sono partiti. Soldi fanno più in fretta a uscire che a entrare. Fanno. E quello già è stato già costantato. Io non sono come molti genitori, che ai bambini, ai figlioli che andano a comprare i bannolini da addrediti, poi i poverini sono tutti quanti rugli e stanno male, pieni di allergie. Io preferisco comprarli, lo pago un po' di più, ma preferisco comprare la roba come si deve. Non me ne frega niente. Finché si può... Si può acquistare, a vedere gli altri se sono buoni per metti pure. Sì, a comprarsi le sigarette già sono bravi già, i genitori. A comprare cosa non migliorano. Anche quello è un vizio, vedi? Anche quello è un vizio e se... E magari a chi fuma, se glielo togli, sono dolori. Perché... Io vi ho reso qualche cosa che ho fumato tanti anni e poi l'ho lasciato, meno male. No, io non fumo moltissimi anni che non fumo, mia moglie ha smesso, dopo il bambino ha smesso, no, non ne ha voluto più sapere, non fuma nessuno quasi, non fuma proprio nessuno. Fuma il fratello e bommi, le sorelle non fumano, non fuma nessuno qua. Se tua moglie fumava e ha smesso, ha avuto tanta forza di volontà, Dopo che, da quando è rimasta incinta, non ne ha voluto più sapere. Meno male. Che è sconsigliato quando una donna incinta continua a fumare. No, non ha voluto, dopo gli faceva proprio schifo. È stato Gabriele a dirle di no, mamma non fumare più. E dalla volta non fuma nessuno a casa, no, non fumiamo più. Meno male. Infatti, meno male. È una cosa brutta, la sigaretta fa male, però chi non riesce a staccarsene rimane difficile, perché quella è come la droga, è una droga in pratica, è una droga autorizzata. Piccata, vera babbo in occhio che era, cioè, non ci volevo neanche più venire qua a casa. Era una ganna fumaria, una parlando una dopo l'altra, Un giorno me ne sono andato tutto a mal di testa, ho detto che non vi vengo più. Ma stiamo scherzando, stiamo. Cioè, carità, guarda. Dentro casa non è igienico fumare, specialmente quando ci sono bambini, bambini piccoli. Se uno fuma potrebbe fumare fuori, alla finestra, oppure uscire in un terrazzino. Però dentro casa non è igienico. È un fiago, quello si può dire, sai, no? Poi quando siamo entrati noi, perché lui è morto, quando siamo entrati noi abbiamo dovuto igienizzare tutto, pulire tutto, perché c'era una puta di sigaretta che non si poteva, assolutamente. Vabbè, poi già si pulisce l'appartamento, non è un problema quello, basta aprire, imbiancare, fare, pulire, vedrai che va via tutto. E infatti, avevo dovuto fare così perché, se c'era la puzza proprio, cioè fiago di sigaretta che non si poteva fare. Ma ci rendiamo conto? No, da quando è nato Gabriele no, più niente di quella robaccia, no. Che ti va a trimare, ti scembi te, già. Lui se stava senza sigarette poi si incazzava, diventava nero, proprio va via casino, senza sigarette. Tu pensa, io... Quando avevo la 1, parlando dall'89 al 90, e a fine 90 ha giudito, non fumo più. Quando mi prendo la macchina nuova non fumo più. Nella 1, la macchina vecchia, dai, c'avevo il tettuccio tutto giallo dalla sigaretta, come accendevo la sigaretta andando a lavorare e via, in macchina fumavo. Poi nel 2000, aprile 2000, ho preso la macchina nuova e ho detto, non si fuma più, lampada della sigaretta. Ma tu vai, oltre a... cioè, se chissà cosa entra nel polmone, cazzo, ti rovina per vita. Pure io un periodo fumavo, poi mi stava facendo male, zitto. Ma è che a me lo faccio fare, mi sa cosa, vai, butta via tutto, vai. No, se uno non fuma e prende a fumare, che se prende in partenza? Prima, io fumavo prima, tanti anni fa, poi mi faceva male e ho buttato via tutto. Non ne voglio più sapere, non entra più di sigaretta, no. E non hai sbagliato, hai fatto bene, la sigaretta fa venire tante malattie che tu manco te le immaginerci. Lo so, Guglia. E così è. Pizza il canuto non ha nessuno dentro, ecco preso, c'erano i biliardo ferie. Roba chimica mi sempre, ti stai ingerendo roba chimica nel tuo corpo. Certo che roba chimica, non bastano questi passaggi della comunità europea. Care che ha fatto giù cucciumi, no? Che... è un usuro buonissimo. Vero è Antone? Sì, non si è Edu. Si è Edu, già entra, se no forse è un gribiazzo. Che dai, su giù cucciù. Vuol dire che è andato, esce d'impresso. Tu fossi burro arrivito, perché ha sorpassato, vuol dire che forse no che... Care che ci vuole? Lo so. Chi è che vuole entrare? Chi? Quando va giù questa gaccia sono Rinato, ti giuro, sono Rinato. Cavolo, mi sento benissimo, Capo. Vabbè, sì, qua, dove sei? Latte dolce. No, la cassa ho preso. La cassa per sentirvi bene, mi capito? Sì, sono latte dolce. Ma vi sento un bel bene, vi sento. Quello della Midland. Ah, sì, sì, me l'avevi detto l'altro giorno. Con la cassa si sente molto meglio. Figurati. Cappa, siccome sono soldi spesi bene. E poi controllato da eBay, costa uguale. Sì. Quelle della Midland sono, costano quel prezzo lì. Che hai detto tu. Ma sono buone. No, io uso, in tutte le radio c'ho una colonnina esterna, in tutte, anche nella VU. Sì. No, va bene, cavolo, ne ho preso due, uno l'ho attaccato alla 48 e l'altro qua, ma mi trovo benissimo qua. Sì. Sono buone. No, io c'ho qui, dove sto parlando adesso, c'ho la Kevund SP 430, quella è una cassa di linea del K. Buona. Aspetta, se buona, se no si intendeva. Ma si possono attaccare questa Kevund, sì? Allora, anche lì, in quel baracchino che c'hai tu, si può attaccare. Attacco piccolo. Lo spinotto normale, uguale a quelle che c'hai nella Midland che hai preso. Cavolo, allora ci possono attaccare anche queste. Oh, veramente bene, veramente bene. Ecco, c'hanno quello spinotto lì solo, c'hanno, no? Dietro. Che voto. Certo. Alla grande, allora. Sì. No, io uso sempre, anche quando io uso la sua originale, quella della linea. Poi nelle altre uso quelle che mi ho comprato a parte. Ne ho uno della Fayette, ne ho con i filtri. E poi ne ho una che dovrebbe essere HFS, BF8. Ah, 10-8. Non ho capito che tipo di marca è questa. Questa me l'aveva data un amico. Ah. Questa è la Midland. AU30 si chiama. Midland AU30. Capo. No, ma già sono buone. Già sono buone quelle. Cosa ne vai a comprare roba costosa? Prendi una che costa poco e va bene lo stesso, va bene. Sì. Va la grande, va. Chiava, riesci a vedere, ma come mai? Come mai non fa niente, aspetta. Aspetta un secondo. Vai, fa. Ah, tu? Me. Non mi sentivi? Ti stavo chiamando col Galax, non mi sentivi? Sinceramente no. Ti sento adesso. Provalo. Collegato durante, no. No, niente da fare. Qualcosa gli è successo. Ma collegato l'antenna, sì. Avanti. Strano che là non mi senti, Antu. Boh, ma con la manto faccio l'antenna. Certo. Sta uscendo il vatto. Sta salendo, sì. E spingi anche l'ago. Spinge. E non mi senti? Non lo so. Ma non è fuori frequenza, no? No, è giusto. È in FM. Allora, qui siamo in FM, sì. Allora, questo è in FM. e nella D, banda D, ed è giusto. Poi questo, e c'avete, no, qui sono, sei a posto, tutto a posto, qua. E tu mi senti a me? Aspetta, che aggancio l'antenna, prova a parlare. Prova, mi senti? 1, 2, 3, prova. Ora a vedere, aggancio l'antenna, vedi se mi senti. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova, mi senti? Sento Franco da Sorso, mi senti? Vai strano, ma... Vabbè, agganciata l'antenna. No, non ti sento. Allora, vabbè, che cosa che non anda? Sì. Sì, c'è qualcosa. C'è qualcosa. Provo in AM a vedere. Vai in AM un attimo. Prova adesso. Adesso in AM. 1, 2, 3, prova. Prova in AM, prova a vedere se funziona. Mi senti? Prova, 1, 2, 3, prova in AM. Che strano. L'apparecchio è tarato bene. Sento Franco da Sorso. Franco. Ehi, mi senti? Ora sì. Eppure sta uscendo quella radio. Tu non mi senti neanche in AM? No, non ti ho sentito. Se hai parlato non ti ho sentito. Probabilmente... Boh, non lo so, perché sta uscendo. Perché ho provato a ascoltarmi nell'altra radio e mi ascoltavo. Chi se non va di banca la radio? Non ho mai ricevuto... Una cosa, mi pare strano, cazzo. Vabbè. Invece la spengo a vedere, da. Una cosa strana. Il cali fare fine corsa. Esogu. Vabbè, da. Domani la controllo. Cosa c'è che non va? Boh, non lo so. Non lo so, perché stasera stava funzionando. Con che hai parlato? Stava funzionando. Sanno che tu non mi senti. Ma tu non ti senti manco a me con quella radio? Sì, ma c'è un problema. Che la radio, io schiaccio il microfono, lo smitter va, la potenza va. Strano. Non è una cosa così. Che te l'ha successo? Boh. Vabbè. Vediamo. Strano, perché io sento tutti qua. Cap. No, vabbè. Vabbè. Niente di... Si aggiusterà. Ma il commutatore è girato là. Si aggiusterà. Vediamo un po'. Domani a vedere cosa succede. Il commutatore quando parlavi con me l'hai girato. Non so cosa hai, commutatore. Cosa il commutatore? Quando tu hai cambi radio non hai il commutatore. Sì, ho il commutatore. Ciò, ma non c'entra niente quello è a posto. Ma è strano, bisogna provarla con gli altri, ma se si sente. Ma se non intendo io manco un altro, però. Che io poi che ricordo io quella radio travo sentita io a te. Modulavo sempre con quella modulavo. Punto, quindi non può essere. Non può essere. No. Si sposta tu 10 kHz e magari intendi ben kiwi, ma fuori no. Domani vediamo, domani la controllo e c'ho più tempo. Strana la cosa. Se no, se la bigliello ci... pazienza. la faremo aggiustare. E cosa le devo dire? Magari è qualche cazzata. Magari è cazzata. No, perché lei esce la radio, esce. Quando schiaccio il portante fa perfetta. Ma bisogna vedere. Strano che non arrivi qua. Capo. Vabbè. Pazienza. Arrivi con ghisso, deve arrivare pure con ghida. Certo che deve arrivare anche con l'altro. Vediamo. Domani è bongo mano. Cosa ci vuoi fare? Sono macchine anche vecchie. Sì, ma se funzionava. Eppure mi ha dato la capo controllare la mamma. Prova. Capo, mi sa che ci provo davvero. Vabbè, dai, a tu, al limite se ci sei dopo, dai. Se no tieni ti salutato, ve la controllo. E gli ha controllato, a vedere. Contra anche il kilohertz, se mai si è già ascoltata. Ok. Wi-Fi. Ciao. Che non ti ascolta. Capo. Avanti. Sto provando su qua, però in FM, con Antonio. Ho provato questa radio, ho provato il Galaxy e mi ha detto che non mi ascoltava, niente. E non lo ascoltavo neanche io. No. Sì, forte di amplificazione. S9 più 20. C'è anche Antonio, se non sbaglio. Ciao Antonio, avanti. Antu, però quando ti chiamo, se puoi entrare meglio. Vabbè, non puoi entrare. Vai Franco. Fare andendo avanti. Sì. Sono contento che funziona. Sì che funziona, Fra. Funziona, a voglia. 9 più 20 a voglia, con un'amplificazione molto alta anche. Quella si può rimediare, vedi? Va bene. Ok, quella si può rimediare. Probabilmente l'ho toccato e ha aumentato il coso del microfono. Sì, va bene. C'era anche Antonio, ma sicuramente si è addormentato. Capo. Antonio era in FM comunque. Era poco fa, con me. La vuoi provare in FM? Vai a vedere. Una bomba, si sente. Ho dovuto abbassare il volume, dalla M all'FM è un casino. Beh, perfetta, Anche tu, Fra. Sì, perfetto. Se l'amplificazione si è abbassata, modulazione più normale, però è fortissima, è forte come radio, va bene. Come fa a dire che non va bene? Capa, non è che ha detto che non va bene, non mi ascoltava per niente. No. Ha problemi lui allora. Ha problemi lui, perché io, ti ripeto, un segnale 920, poi in FM. Qua è un po' selettiva la radio, però è sempre molto alto di segnale. Capo, infatti avevo paura che non mi sia successo qualcosa, ho detto pure stamattina anche stasera stava funzionando. No, va bene. E poi hai provato quell'antenna là? L'ho provata. Però il problema è sulla radio. Sì, mi ha chiamato, anzi veramente l'ho chiamato io stamattina, salvo già. Allora, mi ha detto che vuole sbloccarla, che praticamente stavi andando come zolvate, ma come zolvate stavi arrivando abbastanza bene? Sì, Sì, arriva benissimo. Adesso stavo usando l'antenna AX200, ma quella là ce l'ho in ascolto là, ce l'ho all'altra parte, nella ICOM. Però va bene l'antenna. Caspita, non, diciamo che per essere fatta così senza non c'è stazionare, non c'è niente, però è perfetta. No, ma io ho fatto un paragone fra con te e con Gavino. Ho detto, ma come mai Franco, essendo più alto, mi arriva più basso di segnale? Sicuramente ha problemi di antenna, ho pensato, e invece poi mi ha detto, no, non è il problema di antenna, è il problema del radio, e quindi ci sta tutto, nel senso che se tu stai andando con mezzo watt fra, è logico che non arrivavi fondo scala, ma ti mancavano poche lineette, ti mancavano quattro lineette ad arrivare a fondo scala, però voglio dire, era mezzo watt che stavi erogando. Esatto, mezzo watt. Con mezzo watt stavo erogando, e anche se mettevo al massimo a 25 watt a massima potenza era sempre mezzo watt, e tuttora è così. Infatti, voglio dire, c'era un problema a monte, e quindi giustamente era quello. Scusa un attimino fra, che devo chiamare il cane, che mi sa che, speriamo che non sia fuggito, perché lo sta chiamando mio figlio, non rientra. Vai tranquillo. Già riprendo subito, dai. Antonio, ci sei? Ci sono. Cappa, stava chiamando Tino poco fa. Io c'avevo il volume basso. Ragazzi, tu che ne hai trovato Gavino? Cappa, vedi che Tino mi ha risposto subito. Ho abbassato il volume per sbaglio. No, ho detto, sto usando quella radio, mi sto usando, il Galaxy. Tino mi ha risposto subito, ha detto che sta uscendo anche forte. Sto usando quella. Sì, lo sento. Prima non arrivavi. Chissà cosa abbiamo pigliato il danno, non lo so. Adesso sto uscendo bene. Infatti mi sono meravigliato perché stamattina e anche stasera stava uscendo bene. No, ma me ne sono accorto solo che ho toccato il volume, e poi è un casino. Va bene, non fa niente, va, non ti preoccupare. Adesso passo all'altra perché gli metto le cuffie. Ok, qui è molto meglio. Le cuffie. Sì, qui io uso le cuffie per non disturbare giù, capito? Se no aumento il volume e si sente il rumore. Oh, yeah, mal di gola gioco, mamma. Ho preso un po' di freddo ieri. Bisogna coprirsi, perché hai visto come sono le giornate. Un giorno freddo, un giorno caldo, ed è un casino. Agghiacciato lì, Lì sì, lì altri... diciamo che a volte trovi in questo periodo trovi la neve lì. Certo, ti sembra assurdo, stavo ritirando l'impianto e cosa, intendiamo che sai, no? Certo, ma fortemi, perché c'erano gli asini lì vicino. Io e tutt'aini, che adesso? Le 11, e le 11 sono. Ma suonato un campanellino, un telefono. Prendiamo la pastiglia. Se ci vuole, ci vuole. Beh, prendo una pastiglia, prendo una bottiglia d'acqua. E fai. Quando diventi vecchio bisogna prendere le pastiglie. Li salva vita, gli dicono i medici. Dai, che pigli tu. Capito. Dice, ormai lei è vecchio e deve prendere queste pastiglie qua. Io tanti anni gioco per gli N4. Non lavora. Io comincio alle 8 di mattina e finisco di prenderle alle 11 di sera. Questa era l'ultima per oggi. Ma cosa è il problema, Ruggori? No, a grazie a Dio di Cristo non nascio, ma faccio di tutto, faccio diabete, colesterolo, pressione e via là. Mamma mia. Vabbè, piano piano, ogni giorno ti devi ricordare a prenderlo e basta, e stai bene, però non si sta male, già nonostante tutto andiamo bene. Sonso. Ma poi pigliava chi dava, l'essere sbetta pigliava, metà bloccante, cos'è? Hai ragione, metà bloccante. Dici, ma parugore, se non pigliava chissà moriva subito. Sono qua, sono arrivato, eccomi qua. Ciao. Che è molto forte, va bene, adesso abbasso un po' la radio, ok. E quella, Antonio, capita, se non pigli chissà sei fruttito, capita. Quella, il cuore è la cosa più importante che c'è. Lo so. Ma non ne piglia più proprio, ma è morto un anno fa. Capo, è finito di prendere le pastiglie. Buono. Buono no, perché è muso, poveraccio. Avanti, Tino. Sono in cuore, un attimino, fra. Scusami un attimino, che sto parlando con mio figlio. Riprendo subito. Certo, va bene. Capito? Buono no, perché poverino è deceduto. Sarebbe stato meglio prenderla, continuare a prenderla e essere vivo. Certo. Non so se l'hai mai sentito. Si fa di chiamare Vela 1 e non chi. Ma tuo padre era quello, Vela 1. E io. Ah sì, l'ho sentito qualche volta. Ci ho modulato anche con lui. Ora ne va, se non va vedendo. Ehi, tanto tempo fa, non è adesso no, un bel tempo fa, io mi ricordo prima del 2000, perché da voi Edu continuava a farvi già. Poi aveva smesso. Come ho smesso io lo stesso, e poi ho ripreso. Con un antennino scia. A meno che non andava con la macchina, allora già. Capo, io avevo smesso nel 2000 e ho ripreso, ma sai che non me lo ricordo quando ho ripreso. Avevo fatto la concessione. Adesso guardo se qua sotto, aspetta. Non me la ricordo dove l'ho messa, perché quando sono entrato ho rifatto la concessione, avevo rifatto, però non mi ricordo, ce l'avevo sempre qua, ce l'avevo, adesso deve essere l'ho spostata da qualche parte. Vabbè. Non riesco mai a farvi dare, sono arrugghito, sono. Se ti fa male la gola è un casino. Infatti io quando ho ripreso Antu avevo un baracchino piccolino, di quei piccolini che ho trovato dentro le cassette, no? Dove stavo facendo un po' di pulizia nello sgabuzzino, e ho trovato questo baracchino, un'antenna con la base magnetica. L'ho messa fuori, l'ho messa sul tetto, la base magnetica. Il primo che mi ha risposto era Coso, Gio Maria, stava parlando lui, e mi ascoltava basso basso, ha giocato a vero, a mai cose. A lei, tanto di gente ha giocato ancora va vedendo, ha giubiato un'antenna vicia che va vivo, una mantova, tutta canta e cancarada, era. E piano piano ha giocato con chi, se poi mi ha comprato un'antenna nuova. Era un baracchino nuovo buono. Che antenna avevi prima? Io quando ho chiuso tutto avevo la Mantova 5, nuova, e l'avevo regalata a un amico. Ah, errore. Ho regalato l'antenna, poi mi ho venduto tutto. Avevo il K uguale a questo, S80, e ne avevo radio. Ma avevo venduto tutto. E poi mi sono ricomprato tutto di nuovo. Così andrà finito. No, qua io non ce l'avevo mai. Nell'altra casa sì. E questa qui ho preso l'antenna, la Ringo, e me l'ho rimessa. Ho fatto una modifica per essere un po' più meglio, gli ho fatto fare. Non mi ha dato più problemi, la Ringo vecchia è questa. Cappa, sì. No, già sono buone, spesso penso quelle antenne, non l'ho mai avuta io, però ho sentito molta gente che l'ha avuta. Un grande errore, vero Tino, vero, un grande errore. No, lo sai perché, Franco? Allora, anche a me è venuta l'idea di... Dimmi se questo Mike poi se ne va. Allora, anche a me è venuta l'idea di vendermi tutto, ma perché era un periodo, credimi, un periodo brutto, un periodo... Vabbè, che però ho detto, ma scusa un attimino, mi vendo questa roba qua, fai che ci ricavo anche 300 euro, 350 euro, non mi risolve niente, non mi risolve niente, quindi ho detto, ma lasciamo perdere, non lo stavo utilizzando, però era sempre a casa conservato. Nonostante tutto ero anni e anni che non ne utilizzavo, ma io sai cosa facevo? Il fine settimana prendevo, accendevo tutto, lasciavo scaldare, poi per dire lasciavo tutta la domenica acceso, la domenica, cioè lunedì mattina mi alzavo e rispegnevo tutto. Ma così per qualche anno, non è che non mi veniva proprio neanche voglia di stare seduto, ascoltare, a fare, non mi fregava niente. Era un periodo che non era, insomma, per l'acquale. Quindi ho deciso di conservare tutto e lasciare conservato, sempre attaccato, però conservato nel senso che non mi interessava usarlo, ecco. Però poi un giorno, dopo tanti anni, mi sono rimesso e avevo tutto l'occorrente, so toccava nuovamente riprendermi la cosa che avrei venduto, capito? Sì, in effetti io ho fatto quello, ho fatto. Io nel 2000 ho venduto tutto. Allora, all'inizio del 2000, proprio il mese di gennaio, mi ho venduto tutto mi ho venduto. No. Io ho deciso, tanto mi sono fatto un giro di conti e ho detto, caspita, così, ma cosa mi risolve? Niente. Ho preferito invece aspettare e cambiarmelo nel senso che ho svenduto il 4,40, ma perché? Perché avevo un problema, io a chi l'ho venduto gliel'ho anche detto, perché a me non piace fregare le persone, quindi ho detto, guarda, questa radio qua io te la vendo a questo prezzo qua, che era abbastanza basso, l'avevo venduto a, mi sembra, 250 o 280, se non mi ricordo, ma il valore era un pochino molto più alto di quello che gli ho proposto. E infatti mi ha detto, ma perché la stai vendendo così? Gli ho detto, guarda, perché ha questo problema qua, ha questo problema, questo e quest'altro, è risolvibile, però al momento non mi interessa. Mi ha detto, no, io sono un radiotecnico, a me mi interessa invece la tua radio, mi interessa se quello che mi stai dicendo va bene. Ho detto, va bene, facciamo così, guarda, se poi non il problema dovesse riscontrarsi diversamente, me la rispedisci e io ti ritorno tutto quanto. Insomma, siamo stati in fiducia entrambi, ecco, fra. E praticamente è successo che io gli ho dato la radio, lui mi ha spedito, mi ha dato i soldi, è stato contento perché effettivamente era come gli avevo detto io, e io con quei soldi lì ho aggiunto, forse non mi ricordo, un centinaio di euro, e mi ho preso il 4,50, ma perché era già in porto l'acquisto, capito? Capa, sì. E io invece avevo un'altra idea, di risparmiare tutto e non iniziare più. E invece poi è bastato un baracchinetto da cavolo e un antennino che mi ha fatto ricominciare. E poi ho messo la matova turbo sopra e da allora ho comprato il K, avevo preso di questi, ne ho comprato da quando ho ricominciato, mi sembra che questo è il quinto o il quarto o il quinto, adesso non mi ricordo bene, gli altri li ho venduti perché non andavano bene, allora me li sono fatti fuori e poi mi sono tenuto questo qua, questo è perfetto. Sì, ma infatti voglio dire, perché vendere se una cosa se la cosa va bene, no, lasciamo così, lasciamo il mondo com'è. Anche se rimane fermo e gli fa la sua manutenzione, voglio dire, non sono soldi buttati, ecco. Sì, quello lo so. Infatti avevo venduto lineari, avevo il B300, c'avevo della ZG sotto la macchina, poi ho venduto il baracchino della macchina, in macchina c'avevo sempre l'FM 500S con l'M300. Ah, sì. Un demonio mi scende in Sarrazio, era bella proprio, avevo una radio micidiale con l'M300. Ok, avanti Antonio. C'è una bella radio, già esce anche forte quella. Io vi lascio che purtroppo devo riposare perché domani devo andare al lavoro. Ciao, buonanotte a tutti, anche perché non ce la faccio neanche a parlare, perché non sto bene di gola. Mi ha crepato il freddo micidiale. Ok, dai, buonanotte a tutti, dai, buonanotte, ciao ciao. Grazie della chiacchierata, ciao. Ok, dai, ciao Antu. Prenditi qualcosa per guarire, qualche antibiotico, qualcosa che ti fa bene alla gola. Va bene, ciao, buonanotte, buon tutto, dai, ci sentiamo Antu. Avanti Tino. Sì, ma perché Antu, stai male? Ho preso un po' di freddo ieri notte a Bonorva. Innanzitutto che ero coperto, però era troppo freddo. Ho capito, dai. Va bene. Sì, l'unica cosa che puoi fare è una bella doccia calda e poi a nanna. Oggi mi ha letto, guarda, non ce l'ha fatto così perché non c'era acqua oggi. Ok, dai, buonanotte. Va bene, ciao Antu, buonanotte. Cappa, buonanotte Antu. Capito te, ne ho venduto di roba, allora, tutte in lira, allora l'avevo venduto questo, avevamo la lira ancora. Ho capito, ma no, io sto stampando, cazzo, non riesco più a far andare la stampante dal PC. Diciamo la verità che stavo manovrando nel frattempo che stavo parlando con voi. Stavo manovrando un pochino la stampante, sembra che adesso vada bene. Boh. Ho avuto dei problemi con wireless e infatti ho chiamato l'assistenza, non ho risolto, ma hanno detto che fino al 27 ci sono dei problemi, però almeno so che c'è qualcosa che non va. Perché non stavo navigando né col telefono né col PC né con la stampante, insomma avevo dei problemi. Capo, io invece gli ho affiancato un'altra stampante alla mia e ho fatto l'errore di agganciarla al computer per memorizzargliela, da quanto? Adesso ne ho due memorizzate stampate. E adesso ieri volevo usare la prima che ci avevo, no? Quella della Sansu. Caspita, senza il cavetto l'altra, a Maragana volia che stampava la riga. Ha giocato no. Poi alla fine mi ha già baitato, ha detto, ah tu sei no. Le devo, tutte le volte che devo entrare, adesso tutte le volte che devo entrare per stampare, devo dichiarare quale stampante devo usare. Hai capito? Sì, o la 1 o la 2, dipende cosa, come l'hai impostato tu. No, io invece mi servono dei documenti da... come si dice, da stampare, praticamente non la stampa. Adesso ne sto facendo una a prova, vediamo un pochino se riesco, perché non stava andando come, vediamo se fa, non sta facendo, cazzo, santa pazienza, vediamo un attimino se riesco, ehi, piano piano già ce la fai. Io l'altra l'ho presa perché la Samsung non c'ha per fare le fotocopie, e allora ne ho comprato un'altra per farmi le fotocopie, e adesso è lì e ogni tanto il problema è solo quando devo stampare, devo guardare quale stampante decidere di prendere. Va bene. Perché la tua cosa c'ha wireless? No, il problema non era la stampante, Fra. Il problema purtroppo era a monte, era problemi di coso, di colonnina, di qualche cosa esterna. Tant'è vero che io ho chiamato e mi hanno debitato 30 euro, 29,90, 30 euro per il supporto di, come si dice, perché mi hanno fatto l'assistenza. Gli ho detto no, scusate, io non l'ho richiesta, voi me l'avete debitata in bolletta, e niente, non la dovete togliere perché io non ho chiesto niente. Metto la nuova e gli faccio un rimborso. E detto vabbè, fatemi un rimborso, però io ho problemi alla linea internet, non riesco a navigare con i miei telefonini e televisori, e il problema è che insomma non è stato risolto. Ho detto mi avete fatto pagare, non solo sto pagando, il problema non è risolto, fatemi capire cosa devo fare. Mi pare proprio di sì. Sì. Vabbè che internet è molto lento, Vedi, arrivata a quest'ora va più veloce. Adesso sta andando veloce internet, perché io ho il link che mi avevo messo, no? Però è velocissimo. Di giorno deve essere che sto sopraccarico e va lento. Sì, ho capito. Allora, Fra, avevo cercato una cosa per poter navigare tranquillamente, e allora io parlo di tempo fa, bastavano 7 mega. 7 mega, detto 7 mega sono abbastanza, però 7 mega parte dalla colonnina, poi strada facendo si perdono. Siccome io ho la colonnina a 300 metri da me, cosa succede? Che i 7 mega svincolano, e a casa arrivano 4, 5, gli ho detto scusate, e gli altri 3 che filano fa? Ma no, perché la colonnina è un po' lontano, quindi, ma sono 300 metri, non è che sia chissà cosa. Ma ha detto sì, vabbè, però in 300 metri c'è altra gente collegata, quindi i 7 mega partono da lì, poi vanno a svanire. E ha detto, però io sto pagando 7 mega, a me 7 mega a casa non arriveranno mai. Sì, ma è così, quello l'hanno detto anche a me, anche se ne ho di più io, l'hanno detto anche a me, dice, non è che gli arrivano tutti quelli che gli abbiamo dato, qualcosa dice ce l'ha in perdita. Sì, in perdita ok, però voglio dire, se io ti pago 7 mega, ma dammene 6, un mega è abbastanza perderne, ma che tu me ne dai 3 non mi va bene, perché tanto vale che io pago 7 mega se tu me ne dai 3. Adesso stavo combattendo un pochino con questo qua e mi ha detto guarda, arrivano 5-6, gli ho detto vabbè, 5-6 posso guardarmi un film e mi va anche bene, ma se sono di meno no, perché non lo sai, il film poi si blocca, deve caricare, poi riparte e che cacchio, non va bene. Sì. Io a volte guardo i film e li vedo dall'inizio alla fine, tranquillo. Mi fa navigare veramente, quando c'è, a meno che c'è qualche interruzione di linea, e allora si blocca. Ho capito, però adesso per dire, vedi, io devo stampare il mio documento, non riesco a stamparlo. Non so perché, vediamo se riesco a fare qualche altra prova. Un documento, vabbè, dell'Enermi, che mi hanno fatto una richiesta e quindi ho dovuto dargli le mie scusanti. Mi hanno chiesto 400 euro di luce, e sto aspettando un attimino, parliamone. Prima dei lattini. A casa poi a torna, non torna niente. Certo, fra, secondo te, vabbè, vediamo come esce la cosa. Come una volta, ti ricordi quando c'era lei in via Roma? Allora, diciamo la verità che sì, me la ricordo, però raramente. Ecco, all'angolo di cosa? Di via dopo c'è l'INAI, via Tempio, all'angolo di via Tempio era. Una volta mi hanno chiamato, mi hanno mandato la lettera di presentarmi che c'era un rimborso, guarda amico, che c'era un rimborso che mi dovevano restituire, di presentarmi lì in via Roma. Sono andato e mi ha detto, dice, prima ho parlato con l'impiegato che era fuori, no? Ho parlato e mi ha detto, dice, sì, aspetti che adesso controllo e mi fa, dice, ah sì, signor Fui, si dice, lei dice c'ha due bollette non pagate. Ma sto dicendo, come sarebbe? Mi avete chiamato per un rimborso? E poi ve ne devo dare. E gli ho fatto un casino nero, gli ho fatto lì, perché non era... Per me avevo pagato. E gli ho detto, va bene, voi così la pensate. Adesso io vado a casa, prendo tutte le bollette che lei mi sta dicendo che non le ho pagate e gliele faccio vedere. Scendo a casa, prendo le bollette, salgo su. Oh, gliel'ho data in mano, sai cosa mi ha risposto quell'impiegato? Sì, ma il computer a me mi dice che lei non li ha pagate, ma a me sul computer mi rubi il bistro buono in culo, il bistro buono. Ha detto, cosa cavolo stai lì a rompere? Quando ci hanno sentito a voci, è uscito il direttore, è uscito. E mi ha detto, dice, cosa c'è? Ha detto, ma avete chiamato per questo e questo, e adesso mi sta dicendo che io non ho pagato le bollette pagate, le vedi? Dice... No, aspetti, dice, venga dentro da me, sono andato da lei, il rimborso mi ha dato. Sì, allora, fra, a me è successa una cosa che non so se, forse a pochi è successo, io ero con prima Enel, poi mi sono passato con E.ON, ok? Sono passato con E.ON, ascolta bene il discorso, E praticamente ogni due mesi io pagavo circa 2,70, 3,20, 3,50 ogni due mesi, però 2,4,6 ogni sei mesi mi arrivava il bollettone, proprio la bolletta grande, la prima mi è arrivata a 1200 euro, e detto vabbè, noi se c'è qualche conguaglio paghiamola. Poi passavano altri due mesi e pagavo, che ne so, 2,70, 2,80, quello che era. poi altri due mesi, altre, che ne so, 200, 240, 280, altri due mesi e così via, allora al 6 mesi un'altra bollettona di 2000 euro. Cazzo, 2000 euro. Forse il rimborso che hanno fatto 6 mesi fa non bastava. Vabbè, paghiamo questi 2000 euro. Pagate questi 2000 euro e così via, altri due mesi, di nuovo 3,70, 2,40, 2,80, balle varie, altri 6 mesi, fra, ascolta bene il discorso, 1800 euro, vabbè, paghiamo anche questi 1800 euro, altri 6 mesi, dopo i 6 mesi, 1200, altri 6 mesi ancora, un bollettone da 5.900 euro. Avevo alzato le mani e ho detto, boh, io non pago più un cacchio, non pago più niente, 5.900 euro di luce. Gli ho detto, scusate un attimino, ma voi vi rendete conto che io non ho né un albergo, né una casa d'appuntamenti, né un castello, io ho una casa semplicissima di 70 metri quadri dove ci vivo io e mia moglie, a dir poco non ci siamo quasi mai in casa, come cacchio faccio a consumare 5.900 euro di luce? Quelli hanno visto tutto quello che ti mandavano, pagavi, e allora ci hanno provato più in alto, ci hanno provato, perché tu dalla prima bolletta alla grossa non dovevi pagare. Allora, la stessa cosa che mi stai dicendo tu, fra, me l'ha detta anche mia moglie, mi ha detto no, tu non dovevi pagarla. Però voglio dire, io sono di quelli tranquilloni, no? Nel senso che cioè, c'è da pagare, paghiamo, affanculo, vuol dire che vuole pagata. Va bene una volta, va bene due volte, va bene tre volte, alla quarta ho detto no, basta, cazzo, non basta, perché tu ne stai approfittando. Beh, ci credi, Franco, che tutt'oggi mi stanno cercando da E.ON, che devo pagare ancora 1200 euro, perché hanno stabilito così un prezzo forfettario, come per dire, dai, se mi dai 1200 euro chiudiamo tutto. Ho detto, guarda, tu quelle 1200 euro te le sogni. Ecco, per questi perché a fare tutte queste cose così, a far pagare la gente così, così molto? Cosa ne so, io poi sono andato, con questa bolletta così grande, sono andato lì all'Enel e gli ho detto no, guardate ragazzi, no, voi avete fatto bene a non pagare, perché tanto era una causa persa se pagavate, perché poi alla fine riuscivano questi soldi qua, sinceramente non è il caso. Passate con energia. Ma va bene, passiamo con energia. E ti dirò la verità che i primi mesi, il primo anno, i primi due anni, pagavo circa 200, 220, 240, ma sono due mesi, mi andava bene. Poi ho fatto il bonus bolletta e praticamente pagavo anche 46 euro ogni due mesi, cioè 46 euro ogni due mesi, 56, è stata proprio, adesso mi è arrivata una bolletta, infatti c'è scritto che scade il 25 gennaio del 2024, che è ancora una giubagada, prendela a te, di 387 euro. Mi sembra strano, parliamone. Infatti. No, io guarda, ti dico una cosa, io sono ancora con Enel, ancora non mi hanno cambiato e non mi sono cambiato, sono rimasto ancora con quella là, sono rimasto. E ti dico che stanno arrivando normali le bollette a livello di me. Adesso ero tre mesi che non pagavo, mi arrivava a zero, solo il canone della TV e basta, col fatto del bonus, capito? Adesso rifaccio, questo mese devo rifare l'ISE e poi arriverà l'altro bonus se ce li danno. Sì, vabbè, io questo non lo so perché devo rifare l'ISE e vediamo un pochino com'è. Però voglio dire, mi stavano arrivando delle bollette tranquille. Alla fine questa qua mi è arrivata una battossa, ho detto ma porca miseria, come mai? da 46, 56, 70 euro, adesso mi arriva a 400 euro di luce, ma stiamo scherzando. Capo, un casino, bisogna stare attenti con questi. Io l'ultima bolletta che mi è arrivata, adesso non mi ricordo, riesci a vedere se mi apre, vedo quanto mi hanno mandato. Anche stasera è lento, Cioè? In